This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Radio Free Europe, il primo singolo pubblicato nella carriera degli R.E.M., singolo che nell'81 poi venne ascoltato da qualche tipo all'interno della IRS, l'etichetta indipendente discografica, e gli R.E.M. cominciano da qui la loro carriera. Bentornati e buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Noi siamo a This Is Not an Exit. Saluto Babe qui accanto a me. Buonasera, buonasera a lei, dottor Valenzano. Caro Geometra, saluto anche i dottori Scarpa. Ecco, e Rias. Esatto. E comunque vada, sarà un successo. Vabbè, mi quindi oggi puntatina leggerina. Sì, è partito in quinta il dottor Valenzano, subito entusiasta del gruppo e del loro primo singolo. Beh, Che altro dire? Ma perché era un tempo da entusiasmo. Sì, dai, comunque REM è davvero un gruppo rock da entusiasti, perché loro lo erano rispetto a molti altri loro conterranei, insomma. E insomma, un gran bel gruppo. Dai, Michele, continua un attimo il racconto di questo gruppo che abbiamo oggi ospite. Bah, magari ce l'avessimo come ospite. Gli Ariem, tra l'altro, oggi, come è noto, non ci sono più, si sono sciolti da 3 anni. Vabbè, dopo questo primo singolo, gli Ariem fecero 7 dischi in 7 anni consecutivamente senza fermarsi, fino ad arrivare all'87, quando pubblicarono Document. E da Document uno dei pezzi più belli, più famosi, fu questa canzone qui. One I Love, pezzo tratto da Document del 1987. Document fu l'ultimo disco degli R.E.M. Registrato per etichetta indipendente per IRS. Infatti, dall'anno successivo, gli R.E.M. firmarono un ricchissimo e sostanzioso contratto multimilionario con la Warner Bros. Passaggio che fu ampiamente criticato all'epoca dalla stampa, dai fan, che vedevano abbastanza storta la questione che un gruppo nato nel collegiario passava invece a diventare un gruppo su scala mondiale. Tra l'altro non fu l'unico gruppo a effettuare questo passaggio. Parlammo anche qualche puntata fa di Sonic Youth. Di Sonic Youth fece lo stesso. Insomma, verso la fine degli anni 80 molti gruppi alternative si dimenticarono, o fecero finta di dimenticarsi, di essere i gruppi indie per passare alle major. Nonostante tutto, la qualità musicale del gruppo è rimasta tutto sommato intatta. Nell'88 gli R.E.M. diedero alle stampe Green, verde, titolo che non era affatto casuale, e vi diremo dopo perché. Pop Song 89, primo pezzo tratto da Green. Ma vabbè. Ma niente, il passaggio non fu certo indolore, ma le etichette indipendenti non erano tutte uguali. I R.E.M., i Sonic Cute, tanti altri, Replacements, Asker 2, ne abbiamo già parlato, passarono grosse major, grosse aziende transnazionali, ma probabilmente anche spinti dal fatto che, insomma, l'SST non era più quella dell'81, 82, 83, era diventata una piccola azienda. Greg Ginn ormai non faceva più chitarrista di Bad Religion e lo spirito iniziale era andato un po' perso. Erano diventate anche esse delle piccole aziende, però erano meno efficienti, magari ritardavano i pagamenti e i gruppi, insomma, volevano vedere i frutti del loro lavoro. Ma dal di fuori non si vedeva, era molto facile criticare in quegli anni scelte come quelle degli R.E.M. Cosa che avvenne per tutti i fan della prima ora degli R.E.M. Fatto sa che comunque, come già detto, la qualità musicale non fu maltrattata da Warner, anzi pare che gli R.E.M. di lì in poi maturarono la loro varietà musicale. Questo disco fu anche abbastanza famoso perché gli R.E.M. si accodarono a una certa tendenza che accompagnava i gruppi più famosi di quegli anni, vedi U2 e altri, ovvero impegnarsi politicamente e schierarsi a fianco a Greenpeace. Non a caso questo album, come già detto prima, si chiama Green, verde, perché l'ecologia è un tema abbastanza preponderante in molte delle canzoni di questo album. Listen to reason, season is calling. Stand in the place where you live. Now face the world. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the world. Think about the place where you live, wonder why you have it. Would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face no. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face no. Think about the place where you. Non datevi alla macchia, uscite e votate, votate intelligentemente, Dukakis. Questo fu lo slogan che nell'88, fine 88, apparve in molti giornali americani. Chi lo pubblicò questo slogan? E fu proprio Michael Stipe, perché Michael Stipe all'improvviso nell'88 si scoprì un attivista politico, si schierò apertamente dalla parte di Michael Dukakis, candidato alle presidenziali nell'88, candidato progressista, e infacì i testi di quasi tutte le canzoni dell'album o di menate ecologiche oppure di testi infarciti di riferimenti alle condizioni povere degli Stati Uniti a quell'epoca. Si usciva fuori dall'epoca Reagan, si sperava nel cambiamento, il cambiamento non ci fu. Però Green, un'aria di speranza, di ottimismo, serpeggia in diversi testi. Abbiamo appena sentito Sand, una canzone tutto sommato allegra, gioiosa, spensierata. Altri testi invece non erano così allegri, gioiosi e spensierati. Ad esempio, pezzi come Orange Crush facevano riferimento ad alcuni prodotti che venivano frequentemente usati nel Vietnam. Tipo Agent Orange, l'agente arancione, un noto diserbante con i quali durante la guerra del Vietnam gli americani diserbarono intere sezioni di giungle perché non ne venivano fuori, d'altronde non è che fosse casa loro. Se poi comunque si voleva uscire dal reganismo con Bush padre, non è che la strada era proprio tanto diversa, anzi forse anche peggio. Mi sa che l'ottimismo fosse un po' mal posto, d'altronde chi cavolo se lo ricorda Dukakis? Ah no, io me lo ricordo come nome, era st'origine greca, Dukakis, però sì, no, me lo ricordo come politico, però insomma davvero non ebbe molto successo, perché davvero era un periodo che in America si pensava soltanto a vendere l'idea di guerra, e i Bush sicuramente ce l'avevano ben impressa. Dopo Reagan, insomma, non ci fu questo grande cambiamento, no? Fino a quando poi non è arrivato un po'... vabbè. Saipe però ci credeva, purtroppo non andò come sperava. Tra l'altro Green uscì proprio il giorno stesso in cui ci furono le elezioni. Insomma, c'era molta fiducia, ma ripagata. Beh, vabbè. Crash, stiamo sempre ascoltando pezzi tratti da Green. In sottofondo abbiamo anche una specie di strano mix tra Yeast of Bass, non so cosa. Sì, perché poi noi parliamo male delle piccole etichette indipendenti, ma la munnezza che mandavano le major era questa, eh? Va bene. E questa te la succiavi. Merita, porca la miseria. C'è un rino di basso. secondo me abbiamo attirato più gente in questi 5 secondi che in tutta la trasmissione. Miki, abbiamo toccato il fondo. Beh, in fondo è anche grande musica questa. Beh, insomma, mica tanto. Musica di grande successo. Sì, sì, sì. Allora, anche gli IRM all'epoca cominciavano a fare grande successo. Ma Michele, volevo chiederti un po' delle origini, no? Perché Athens comunque è una cittadina della Georgia, quindi abbastanza profondo sud degli Stati Uniti, vicino Atlanta, la città della Coca-Cola, ma loro comunque vengono dalle prime, cioè anzi dall'ultima scia delle comunità hippie, perché Athens, se non sbaglio, è stata una città capoluogo per la comunità hippie, è vero? Ti ricordi degli anni 80, i primi anni 80, quando loro comunque facevano parte di quella scena? Poi, infatti, cioè, è l'origine forse, no, ma anche quella dell'ecologista che poi viene dopo, no? Infatti loro in molti album rivendicano questa mitologia del rurale. Cioè in Fables of the Reconstruction loro parlano solo di campagne in maniera piuttosto criptica ed ermetica, come non sia di Michael Stipe, però parlano solo di campagne in quell'album, e insomma si porteranno questo tema in tutta la loro carriera. A proposito delle loro origini, come hai detto te, loro sono nati nel profondo sud degli Stati Uniti ed era una delle zone più degradate, tutto sommato. Anche dal punto di vista dell'apertura mentale della gente, aveva un'università piuttosto conservatrice, fondavano tutto su football americano, non c'era molto spazio alla cultura. Si sa anche che loro i primi anni vagavano su un furgoncino scassatissimo in giro per i vari bar gay degli Stati Uniti. E incontravano sempre gli stessi gruppi, no? Black Flag dalla California, esatto, e gli Asker Du da Cleveland, insomma. Però attitudine punk bella troppo. Mi immagino la scena che per gli Stati Uniti giravano sti furgoni, ogni tanto si incrociavano. No, ma quello è il furgone dei Black Flag. Ah, sì, suona, un colpo di clax. Ti spiegati dei Black Flag. Ma, infatti, la gente voleva altro, cioè la gente pensava... ma arrivano i Black Flag, arrivano gli Asker Du, invece si sentivano questi che suonavano con gli stessi strumenti che utilizzavano gli Asker Du, ma suonavano tutt'altro, suonavano, sì, musica che per loro era musica, tra virgolette, da froci, per cui... Sì, però l'attitudine era punk comunque, do it yourself, furgone, chilometri su chilometri, ed era l'unico gruppo di Athens, perché c'erano altri gruppi che poi intervistati successivamente dicevano, ma loro ci hanno sempre creduto, è stato l'unico gruppo ad andare avanti imperterrito e hanno avuto il successo che meritavano. Vero, vero, vero. Loro stessi lo lamentano sempre questo quando li intervistano. Era un gruppo che non si pensava avesse molte possibilità di sfondare come tutti gli altri, però alla fine... That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. Listen to yourself, churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it off an ox, speak grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down, high. Wire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow. Population comment proof, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heart, bleed, dummy, with the rapture. Right, you patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't get caught in foreign tower, slice and burn, return, listen to yourself, churn. Book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. bike, mountain sit in a light, Leonard Bernstein, Leonette, Brezhnev, Lenny, Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? Right. It's the end. Michele, ma sto pezzo qua ricorda un altro pezzo che arrivava direttamente da Correggio, o mi sbaglio? Sento delle sonorità uguali, simili. Babe che, insomma, ne sa una più del diavolo, può dirci qualcosa in proposito. Vabbè, ma tra Via Emilia e l'West sono stati commessi molti delitti, tra cui anche coverizzare It's the End of the World, che non è esattamente la fine del mondo, però... Poi magari secondo la teoria dei Divo possiamo anche trarre che è stato Ligabue a comporre per primo e IRM a copiare, a coverizzare. Sì. Ci manca pure questo. In viaggio nel tempo, praticamente. La teoria della devoluzione appropriata da Ligabue. Va bene, lasciamo perdere i concittadini di Babe. Continuiamo a parlare degli IRM. Vabbè, abbiamo sentito uno dei proverbiali scioglilingua di Michael Stipe, un noto liricista famoso per essere abbastanza criptico, non solo nell'interpretazione dei testi, ma anche per metterci diverse volte nei suoi versi parole che non significano nulla, però li mette per facilitare una metrica abbastanza originale, fantasiosa. Tant'è che poi in Green... farà scalpore il fatto che per la prima volta sarà pubblicato il testo di una canzone, ovvero World Leader Pretend, cosa che fino ad allora non era mai accaduta. Dopo 3 anni di silenzio, causa anche un lunghissimo tour dopo Green, abbastanza stressante, che portò anche al primo collasso del batterista Bill Berry, cosa che riaccade, ricordiamo, poi nel tour del 96 di New Adventures in Hi-Fi, cosa che poi comportò anche l'abbandono di Bill Berry del gruppo. Nel 91 gli R.E.M. tornarono con un album completamente diverso da Green. Dusk is dawn, is day. Where did it go? I've been laughing fast and slow, moving in still frame, howling at the moon. Morning found me laughing up and down, down, low, low, low. Night suits me fine, morning suits me fine. I've been so happy, happy, way up high. Down below, low, low, low. said the morning, it isn't your time. Barefoot, naked, I can see your lines. It doesn't bother me if you are right. Your grass is grassy wet, your light white, it's bright light white. Riflessioni sul decennio dell'egoismo. Ho definito gli anni Ottanta l'era di Reagan e del gatto Garfield. Ora sono finiti, il che è probabilmente un bene. Possiamo ringraziare i nostri vari dei per questo, ma da un punto di vista strettamente musicale abbiamo visto il punk rock commercializzarsi e la black music cominciare la propria ascesa. Da un punto di vista personale penso che ne siano venuti fuori un po' in anticipo. Provo uno strano tipo di nostalgia. Chissà se la gente comincerà a indossare gli stessi vestiti 3 anni dopo averli indossati la prima volta. Penso però che questo tipo di nostalgia immediata sia un riflesso dell'impatto che la cultura americana ha avuto sul mondo. Le cose accadono talmente rapidamente che tagliano via delle parti della nostra vita. Questa nostalgia immediata è una cosa davvero raccapricciante. Non voglio porre troppo l'accento su questi 10 anni, il decennio come un'unità separata. Però la gente tende a farlo e sembra funzionare fin troppo bene. È davvero strano come quei numeri possano cambiare a tal punto le cose. Mentre ci avviciniamo alla fine del decennio, sembra fare un'enorme differenza. Sono abbastanza ottimista riguardo agli anni 90 e penso che un sacco di gente passerà il prossimo decennio cercando di educare se stessa e di scoprire come viene mandato avanti il mondo. Gli ultimi 10 anni sono sembrati forse i prossimi 10. Sembreranno 70. Flowers films on a maddening moon is close. Who's close? Don't fill us right. I'm to blame. It's all the same. It's all the same. You come to me with a bone in your hand. You come to me with your hair curled tight. You come to me with positions. You come to me with excuses. Tucked out in a row. You wear me out. You wear me out. We've been through fake breakdowns, self-hurt, plastics, collections, self-help, self-pain, yes, psychics, fuck off. I was central, I had control, I lost my head. I need this, I need this. A paperweight, junk garage, winter rain, a honey pot, crazy. All the lovers have been tagged. Hotline, wanted ad. Crazy what you could have. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. Crazy what you could have had. Crazy what you could have had. Needed. I need this. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. I need this. Out of Time è un album abbastanza cupo, molto malinconico, esistenziale. Però c'è un groove dentro che è una poesia fantastica, forse è la forza di questo disco, no? Cioè, a me mi ha particolarmente impressionato sto lavoro qua, devo dire la verità. Beh. Cioè, ai tempi della sua uscita non era veramente male, era un buon modo e anche abbastanza importante di imporsi nel mercato, cosa che poi ha avuto anche un discreto successo, sbaglio. Fu l'album più venduto fino a quel punto della loro carriera, vendette oltre 1.700.000 copie, forse continua a vendere tutt'oggi, perché fu l'album in cui c'erano due super singoli, Losing My Religion, che passava sulle radio e su Video Music 22 ore su 24, e perché tutto sommato fu anche l'album più personale, più sentito da parte loro. Io ho sempre creduto che questo in fondo sia l'album più sincero degli R.E.M. Infatti canzoni come Country Feedback riflettono molto lo stato che ha accompagnato, secondo me, Michael Stipe e soci, perché loro dopo Green, dopo aver avuto per tutto quel periodo i fari puntati su di loro, hanno avuto un attimo di smarrimento, si sono sentiti un po' così, non faceva troppo per loro quella vita, per cui si sono chiusi in se stessi e hanno tirato fuori questo album che contiene delle perle malinconiche, magnifiche, come questa che abbiamo sentito e tante altre. La cosa buffa è che rientravano nelle classifiche di Rolling Stone come migliore, con il miglior singolo, con Losing My Religion, e al contempo come peggior singolo. Da un certo punto di vista era geniale. Contraddizioni dell'epoca. Losing My Religion fu anche per una settimana o due al primo posto nella top 40 di Billboard, sovrastando gente come Whitney Houston, Mariah Carey e altra gente che insomma con la musica... Ma chi sono? Chi sono costoro? Maraglia. Maraglia. Maraglia, che è Maraglia, chiaro, quella che sta, sì, sui piani ogni tanto. Beh, anche questa puntata volge al termine, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Vi salutiamo dagli studi di Radio Città del Capo, sono ormai le 16:57 minuti primi. Vi ricordiamo che saremo in onda anche sabato prossimo, sempre alle 16. Salutiamo il dottor Corrias, il dottor Scarpa, il dottor Valenzano. Ciao, geometra. Buongiorno e buonasera, ingegnere. Questo proprio da... Fatti cazzi tuoi, ragazzi! E buona serata a tutti, con la programmazione di Radio Città del Capo e i ragazzi di If the Keys Are United. Pump up the volume.